Saga, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Oggi vorrei approfittare della fortunata circostanza che perlomeno a Roma i ragazzi delle scuole stanno a casa, ma probabilmente anche in altre città d'Italia questo starà accadendo, causa emergenza maltempo, di cui non voglio più parlare, potrei lungamente intrattenervi questa mattina sulla preparazione alla neve a Roma. Io sono uscito da casa che sembravo Babbo Natale, avevo anche l'ombrello, tanto che una ascoltatrice mi colse impreparato sul far della metropolitana e mi ha scritto adesso su Facebook perché portava l'ombrello, perché mia moglie ha detto porta l'ombrello, non si sa mai, ho preso l'ombrello per farla contenta, ero abbastanza ridicolo. Dicevo, voglio parlare oggi di un problema che coglie molte famiglie le coglie impreparate, molte altre famiglie lo considera una benefica scuola di vita, quando un ragazzo viene a casa e racconta, e lo raccontano sempre con grande reticenza, con grande vergogna, di essere stato implicato in un episodio di bullismo. Due sono le categorie da quel punto di vista: la vittima del bullo e il bullo, o i fiancheggiatori del bullo. A seconda della collocazione del proprio figlio in questo quadro di rapporto violento, le famiglie possono, se illuminate, rabbrividire e prendere subito provvedimenti, possono gioire se loro sono state a loro volta scuola di bullismo per il figlio bullo, apprendista bullo o facente parte della corte del bullo, possono entrare nel più profondo disagio se il figlio è vittima di bullismo, possono ancor peggio infierire sul figlio vittima del bullismo dicendo devi imparare, la vita è fatta di questo, sei uno sfigato, datti da fare, impara, combatti, menagli, chi mena per primo mena due volte, e via dicendo. Le cronache di questi giorni, abbastanza ignorate perché ci sono altre priorità, dall'attentato al Papa, al maltempo, al presidente in America e via dicendo, ma hanno lambito via via questo episodio, questo fenomeno che ogni tanto riemerge. A me sembra molto singolare e molto indicativo dei tanti mali di una società il fatto che esista il fenomeno del bullismo così marcato nelle nostre scuole, in un momento in cui i ragazzi sì sono attraversati dalle angosce degli adulti, ma non avrebbero ragione per farsi la vita difficile, potrebbero vivere molto meglio, e chissà perché andare a scuola per molti diventa un incubo, quando potrebbe essere anche un piacevole diversivo, oltre che studiare, per incontrare persone. Fra i tanti episodi in questi giorni che sono apparsi sui giornali, ce n'è uno in particolare che è accaduto proprio qui a Roma, in un quartiere di Roma, che mi ha fatto molto riflettere. A 13 anni le questioni di cuore, si sa, non vanno sottovalutate, anzi spesso diventano quasi una ragione di vita. Rubare dunque un fidanzato può voler dire guerra aperta, e proprio un amore conteso ha portato a un atto di bullismo, questa volta tutto al femminile. Una storia di bullismo al femminile atipica, perché di solito il bullismo al femminile si concretizza in minacce, frasi, situazioni di emarginazione, atteggiamenti denigratori. In realtà qui abbiamo un atteggiamento concreto che si formalizza con un'aggressione, con un contatto fisico molto violento, molto cruento. Abbiamo calci, pugni, abbiamo sangue, abbiamo una ragazzina che rischia la rottura del setto nasale. Una situazione che nasce da un episodio. È accaduto davanti a una scuola della Garbatella, una ragazzina era stata rea del furto di un fidanzato a un'altra ragazzina coetanea, l'hanno aspettata fuori dalla scuola, è iniziata una rissa, l'hanno presa a calcio, a pugni, ma proprio picchiandola per bene. È intervenuto il padre della vittima, ha provato a strappare la furia delle altre, così perlomeno la ricostruzione dai giornali. Non c'è riuscito, anche perché la figlia era molto determinata a darsi da fare nella scazzottatura. Alla fine il padre ha deciso di farsi vendetta da solo, pare che abbia fatto una telefonata, portami il giocattolo. Quindi questo particolarmente impressionato chi ha ascoltato questa telefonata, ma chissà perché non è intervenuto nel pestaggio, è andato sotto casa di uno dei genitori delle picchiatrici per farsi giustizia da solo, ma ha trovato la polizia, ha aggredito i poliziotti, ha fatto un'altra rissa, ma ha minacciato che quando uscirà si occuperà anche degli altri. Questo è un fatto sintomatico, un fatto che associo ad alcune ricerche, ogni tanto ne esce qualcuna, questa ultima fatta da una scuola di economia di Londra, sugli adolescenti in rete e allarga il fenomeno al cyberbullismo. Anche questo caso aveva una sua estensione in rete. Prima delle botte sono arrivate le minacce su Facebook. 8 genitori su 10 sono convinti che il proprio figlio non corre rischi quando sta davanti a un computer. Invece pare che una delle aree di prima aggressione o perlomeno di pressione nei confronti di una vittima sia proprio quella attraverso i social network, che sono una reale e concreta propaggine emotiva di ogni ragazzo. Beh, come la pensate voi? Avrete ragazzi a casa? Consultateli, fateci sapere. Vorremmo sapere il vostro punto di vista, la vostra esperienza. Rendete conto che per molti dei nostri figli andare a scuola è un martirio. E non hanno il coraggio di dircelo, la mattina escono, sono svogliati, pensiamo che non abbiano voglia di studiare, pensiamo che siano reticenti al loro dovere di scolare, ma in realtà hanno paura, perché entrare a scuola loro è come entrare nel braccio di una prigione per un detenuto alle prime armi, rischiano veramente tanto. 800 24 0024. Io volevo raccontare una storia di bullismo al femminile di mia figlia, che oggi ha 13 anni e in quinta elementare. Lei e la sua amica hanno subito un trattamento psicologicamente disumano da due altre ragazzine della loro classe. Mia figlia e anche la sua amica hanno entrambe reagito a questo trattamento con reazioni fisiche. Mia figlia ha avuto attacchi di mal di pancia che l'abbiamo portata al pronto soccorso pensando fosse l'appendicite, è rimasta 9 ore in osservazione, non era niente che il fisico che reagiva a una tortura psicologica. Le femmine, come al solito, sono più cattive, più disumane, però non fisicamente ma psicologicamente. 800 24 0024. Non so se le femmine siano più cattive, più disumane, come racconta l'ascoltatrice che ci ha lasciato questa sua testimonianza. Non so se ci sia una mutazione nel fenomeno del bullismo, che essenzialmente in chiave di sopraffazione, violenza maschile, tipica, come accade nel nonnismo nelle caserme, quando nelle caserme avveniva questo, come accade in tanti ambienti a forte presenza maschile, ma sia virata verso le donne. Le donne sono più toniche, sono palestrate, più abituate a manifestare la loro autonomia. Questa autonomia arriva al punto che arrivano a scimmiottare i loro coetanei maschi anche in questi atteggiamenti di violenza. Il fenomeno è sempre più diffuso. Mio figlio ha dei problemi con i compagni e ha dei problemi con un professore. Ha voluto chiarirsi col professore e gli ha confidato i problemi che ha con i compagni, ma senza fare i nomi, facendogli capire di stare un po' più attento a quello che succedeva in classe. Il giorno dopo il professore l'ha preso, seconda media, l'ha preso di fronte ai compagni e gli ha detto: dimmi che problemi hai con i tuoi compagni, chi è che ti picchia, chi è che ti dice le parolacce. Il ragazzo ha iniziato a balbettare perché non voleva fare la spia, non voleva creare ulteriori problemi, al che il professore ha detto: sei un bugiardo, soffri di vittimismo, la colpa è tua. Il ragazzo è rimasto esterrefatto da questo fatto. Ho chiesto conferma ad una compagna delle parole usate da questa persona, perché non volevo credere a una crudeltà. Questa è un'altra telefonata fatta nel corso di una trasmissione precedente di Melogo, in cui toccammo questo problema. Ma per chiudere il quadro e per mettere poi il nostro ospite, che fra un istante vi presenterò, perché abbiamo una persona documentata che ha studiato il problema, quindi non mi limiterò a ascoltare le testimonianze di chi telefona, ma daremo per quanto possibile delle risposte. Sentiamo l'ascoltatore Nello, il primo che ha chiamato. Nello, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Sì, volevo intervenire anche l'altra volta con la neve. Siccome io sono rumeno, no? Lì c'è la neve adesso, proprio a 700-800 metri dalla riva, e il mare è ghiacciato, quindi si sentiva qua, ma no, si stanno esagerando anche con il bullismo, no? Io mi scusi, ma io non ne ho bambine, però uno che ha bambini come anche lei, a darle del bullismo quando fa una delle ragazzette, no? Dei problemi che gli fa, a dare del bullismo, sembra brutto. Sì, ma scusi, lei telefona tanto per telefonare in ogni argomento o ha cognizione di cosa stiamo parlando. Se lei non ha figli o non conosce il problema, lasci parlare chi ha questa esperienza. Non diamo a priori indiscriminatamente del bullo, parliamo di episodi criminosi, reali e concreti, in cui ragazzi minorenni si sono lasciati andare in manifestazioni che sono assolutamente riprovevoli. Questo accade in famiglie che si ritengono civilizzate, non sempre accade in famiglie borderline, famiglie che hanno problemi, accade anche in rispettabilissime famiglie di genitori illustri professionisti possono generare dei bulli, è questo di cui vogliamo parlare. Giorgio? Sì, buongiorno. Allora, io volevo intervenire rispetto alla situazione del bullismo. È sempre più difficile per i nostri ragazzi. Io ho due figli, una figlia di 21 anni, prossima 22, e uno di 18. E secondo me loro si sentono molto isolati, molto soli in questo mondo sempre più in corsa. E per potersi così prendere un posto, anche loro a volte diventano aggressivi, diventano irruenti. Non credo che sia giusto, però secondo me purtroppo anche alcuni filmati, alcuni messaggi dei media, non do colpa a loro, ma tutto l'insieme del sistema, gli fa capire che con la forza, con l'arroganza e con la cattiveria a volte si può prendere tutto, anche la politica a volte da questi messaggi. Sì, ma secondo lei, scusi, parlando di ragazzi minorenni, preadolescenti spesso, non dovrebbe esistere un filtro tra i messaggi dei media, che possono essere anche invasivi, fuorvianti quanto vuole, e quello che dovrebbe essere la presenza dei genitori in una famiglia? Dovrebbe essere così, ma molte volte siamo condannati anche noi genitori a correre o a rincorrere il lavoro e sempre col fiato. Ecco, perfetto, allora, i genitori hanno molto meno tempo per occuparsi dei figli, ammesso che ne abbiano mai avuto in passato, e questo fenomeno, che probabilmente è sempre esistito nelle scuole, oggi sta assumendo contorni preoccupanti, perché una volta perlomeno la scuola su questo vegliava, sorvegliava e ci stavano attenti. Oggi probabilmente esiste un meccanismo per cui è meno possibile avere un controllo a parte la scuola. Ma io vorrei a questo punto smettere di parlare per improvvisazione e le esperienze e portare il contributo di chi questo problema l'ha studiato veramente. Gabriella Leandri, buongiorno. Buongiorno. Gabriella Leandri è un professore di pedagogia generale e sociale all'Università di Macerata, ha scritto un libro, Giovani senza paura, analisi sociopedagogica del fenomeno bullismo, uscito per Armando Editore. Quindi ha studiato attentamente, analizzando le fonti possibili, analizzando le cronache, il fenomeno. Rispetto a queste prime telefonate, ha dei punti di riferimento che lei già conosce nel quadro che si è fatta sul problema? Sì, dunque, il fatto di cronaca riportato anche dal Corriere della Sera di martedì scorso ci dà la possibilità di riflettere su alcune caratteristiche peculiari del fenomeno bullismo in sé, che ha una dilagazione, una ampiezza abbastanza rilevante, tant'è che almeno un ragazzo su quattro afferma di essere stato comunque coinvolto a vario titolo in episodi che possono rientrare all'interno del bullismo. Il bullismo al femminile, che anch'esso sta conoscendo una crescita progressiva e, da come abbiamo sentito anche nel secondo intervento, per molto tempo è stato ritenuto un bullismo quasi esclusivamente di tipo psicologico, mentre invece dall'episodio della Garbatella emerge invece un bullismo di tipo diretto, cioè dalle cattiverie tipiche fra ragazze, sei vestita male, sì, sei un cesso, non sei alla moda, a quelle reali spacco la faccia. Sì, ad episodi di vera e propria violenza che appunto arrivano proprio ad atti di criminalità. E tra l'altro anche l'ulteriore nuovo fenomeno emergente, che è quello del cyberbullismo, che ovviamente è un fenomeno complesso, ha varie articolazioni, qui è nato soprattutto come uno scambio sul social network, per cui insomma vorrei soprassedere un attimo su... Sì, andiamo all'aspetto. Io direi in questo un'altra fenomeno... cosa sì. importante di questo episodio ci fa riflettere anche sul disagio delle famiglie, perché poi è intervenuto anche la famiglia, ma è intervenuta in una modalità assolutamente da riprovevole. Che però è abbastanza sintomatico di un clima generale. Esatto. Un padre va sotto casa e un altro padre per spaccargli la faccia. Il momento di rabbia può prendere a chiunque, nessuno si senta immune dai ritorni ad aspetti primordiali. Qua mi sembra ci sia stata un'azione che denota una certa abitudine a risolvere le questioni in quella maniera. Infatti questi episodi di bullismo danno proprio la possibilità di riflettere, danno dei segnali di disagi all'interno della famiglia, delle dinamiche educative familiari, delle dinamiche relazionali familiari. Spesso sono famiglie o di tipo autoritario, di tipo troppo permissivo o di tipo troppo indifferente, appunto, a volte non per volontà, per mancanza anche di tempo. Come diceva l'ultimo ascoltatore. Esatto, ma il tempo si può gestire anche dal punto di vista non soltanto quantitativo ma anche qualitativo. E allora è importante utilizzare il tempo che si ha a disposizione, se non poter stare accanto ai figli mentre vedono e fruiscono dei media, educarli alla fruizione dei media. E quindi è importante un'operazione sinergica, congruente, coerente da parte di tutti gli stakeholders, e quindi famiglie, scuola, istituzioni, anche media, affinché i ragazzi possano usufruire dei vantaggi positivi. E stabiliamo i personaggi implicati in questo fenomeno. I ragazzi innanzitutto. I ragazzi che sono sempre i protagonisti, attivi o passivi, comunque principali. Poi viene subito la scuola, perché avviene il bullismo in un ambito in cui il ragazzo deve essere sotto l'osservazione comunque di un'istituzione che la guarda. Poi vengono le famiglie, poi viene qualcosa sopra la scuola e le famiglie, che sono le istituzioni. Qualcuno dovrebbe censurare il comportamento o educare il comportamento, seguire il comportamento, indirizzare il comportamento sia della scuola sia dei genitori. Ecco, quali sono le percentuali di responsabilità di queste parti? Ecco, le responsabilità, ecco, io adesso non farei percentuali perché io sento la responsabilità al 100% di ciascun istituzione o dalla familiare alla scolastica, alla sociale. Un professore che chiude un occhio, come la testimonianza, sputtana la vittima davanti agli altri, rendendola ancora più passibile di violenza da parte degli altri, è fortemente responsabile. È altrettanto responsabile di chi interviene in prima persona. Ma come un caporale di giornata chiude un occhio se fanno i gavettoni in caserma, perché sai, quello è un mantenimento dell'ordine. Non può accadere che anche un professore, tuttavia, si senta in qualche maniera questa rete di protezione, perché i bulli tutto sommato mantengono l'ordine, la disciplina. Apparentemente comunque tengono il clima aiutano, diciamo. È molto più difficile contrastare il bullo, anche perché il bullo spesso è una famiglia o violenta o molto potente, è sempre figlio di qualcuno che comunque ha possibilità di mettere in soggezione il professore. Lo dico con cognizione di causa, non lo dico a caso. Sì, sì. Molte volte il professore dice: ma chi me lo fa fare di andarmi a scontrare con l'avvocato X, con il dottore Y, con l'assessore Z, perché il suo figlio viziato e stronzo a scuola se la prende con gli altri? Infatti possibilmente bisogna evitare lo scontro. Quello che invece si vuole stimolare è l'incontro, tutto il contrario. Ecco, un altro elemento che emergeva dall'ultima telefonata del signor Giorgio era l'estrema competitività che viene stimolata all'interno della nostra società. Ecco, la competitività alla quale vogliamo educare i nostri figli, i nostri ragazzi, eventualmente è una competitività positiva, una competitività che prevede l'impegno personale. Ma guarda che il bullo normalmente lo sa meglio di me, quello che a scuola va peggio di tutti, anzi trascina verso il basso rendimento. Il secchione, il nerd, quello che studia, sempre la vittima, che a un certo punto smette di studiare, cerca i cattivi voti per essere considerato anche lui della banda dei pirati. Certo. Sentiamo Carla un attimo. Carla, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io voglio proporre uno spunto di riflessione. Ho due figli. Il primo è stato un nerd, come dice lei, secchione, e abbiamo passato veramente 7-8 anni della nostra vita combattendo con continui, essendo maschio, con continui dispetti, in una situazione veramente, pensavamo fosse sociopatico, non sapevamo più. Sì, perché spesso a scuola dicono questo, è sociopatico, non si integra. Dopo 6 anni una figlia femmina, l'ambiente quindi è lo stesso, la situazione è la stessa, la famiglia è la stessa. Lei bulla, io sono stata fatta oggetto da altre persone, mi hanno contattato per chiedermi che lei non spadroneggiasse sul pulmino, non mettesse in ridicolo gli altri, non facesse mobbing ad altre ragazze, e fra l'altro queste persone avevano perfettamente ragione, non è che sto dicendo che non è vero. No, lei è una genitrice consapevole di quello che sta accadendo. Mi viene da dirle, è talmente spaventata l'esperienza del fratello che l'ha preceduta che brucia i tempi. Sentiamo però la professoressa Leandri. Sì, probabilmente ci sono state delle reazioni magari ad esperienze di sofferenza magari vissute per quanto riguarda l'esperienza del fratello. Ovviamente, ecco, in questo caso deve servire proprio per attivare un processo comunicativo sia all'interno della famiglia sia tra la famiglia e la scuola, perché poi quello che è più importante e che tra l'altro rilevano gli stessi ragazzi come esigenza è proprio quella della possibilità del dialogo e della possibilità di avere dagli adulti una risposta concreta, una presenza sicura, un saper dare una risposta. Solo una battuta, Carla, prima di dare la linea alle informazioni della borsa. Quando in casa sua figlia è bulla anche con il fratello, con voi, è spavalda, oppure con voi è una figlia nei margini? È bulla anche in casa. Ah, quindi è una ragazza ribelle con dei comportamenti che anche in famiglia creano dei problemi. Quindi, esattamente. Quindi io non siamo una trasmissione medico-psicologica, però lei capisce bene che c'è un bel lavoro da fare. L'altro figlio ormai probabilmente... Il nerd tartassato poi acquisisce di solito degli strumenti formidabili di rivalsa. Chi è vittima dei bulli poi di solito nella società è sempre qualcuno che si prevale per la sua creatività, per la sua genialità, per il suo impegno. Il bullo è sempre ottuso, diciamo la verità. I bulli che ho conosciuto ai miei tempi a scuola sono tutti finiti male o con ruoli molto marginali nella società. Le vittime dei bulli in realtà sono quelle che poi hanno dimostrato una singolarità. Il bullo punisce la singolarità, punisce la diversità, punisce l'acume, punisce la creatività. Il bullo è il fenomeno omologatore della società preso in nuce nel momento di nascita al livello di esperienza scolastica. Melog, la realtà condivisa. Quelle che vedete, 9 secondi di immagini di pessima qualità caricate su YouTube, sarebbero le prove del presunto pestaggio subito da un ragazzino poco più che 15enne ad opera di suoi 5 coetanei. Una studentessa di 16 anni viene attirata con l'inganno nel cortile della scuola. Lì l'aspettano 3 coetanee. Partono calci e pugni al viso, alle gambe, allo stomaco. Le 3 si accaniscono contro la ragazza per qualche minuto. Marchiato a fuoco in classe da 2 compagni, accaduto a Torino in una succursale dell'istituto Steiner, già a teatro in passato di un episodio di bullismo quando alcuni studenti picchiarono un compagno. 800 24 00 24, abbiamo fatto un mix da servizi di Sky TG24 con episodi di bullismo presi dalle cronache, messi assieme sono abbastanza impressionanti. Stiamo cercando di valutare l'evoluzione di questo fenomeno, lo facciamo con ospite in studio la professoressa Gabriella Aleandri, che insegna pedagogia generale e sociale all'Università di Macerata e ha scritto un libro, Giovani senza paura, che è un'analisi socio-pedagogica proprio sul fenomeno del bullismo, edita da Armando. Sentiamo qualche ascoltatore, poi con la professoressa approfondiamo qualche domanda che ci stanno facendo. Alessio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Io insegno alle superiori ormai da 15 anni e devo dire che purtroppo siamo disarmati se non si realizza quel patto tra scuola e famiglie che si esplica anche a livello concreto con attività contro il bullismo. Io insegno in un istituto superiore, in un liceo, per cui dovrebbe essere tra virgolette un'isola felice, ma anche in queste isole felici esistono fenomeni di bullismo. Ecco, ma come se ne rende conto un insegnante? Perché mi sembra che sia da un po' percepibile quando si vede uno che è vittima di altre persone. Intanto io ero alle superiori vittima di bullismo, per cui forse ci se ne rende conto se si è subito questa aggressione da parte di questi che di fatto, come diceva lei, sono poi nella vita realizzano poco con questa loro violenza. Diciamo, sì, è sempre un cretino il bullo, diciamo la verità, è una persona che accentra tutta la sua potenza e la sua attenzione nel modo di vestirsi, nell'atteggiamento, esatto. Nel successo momentaneo, ma non coltiva nessun talento, non ha talenti il bullo. Diciamo che forse nelle discussioni, cioè io impronto una pedagogia molto attiva e molto partecipata con i miei ragazzi, cerchiamo di dialogare, quindi non è solo una lezione ex cattedra, ma si cerca soprattutto di implementare un discorso. Sì, ma praticamente quando lei individua, perché il bullo è facilmente guarda, individuabile, perché è quello spavaldo, è quello che si permette, certo, anche libertà coi professori, che esatto, quando dice una stupidaggine tutti ridono, è quello che finge che lui può permettersi di non aver studiato, considera questa una bravata, una cosa, sai, ci sono mille sintomi. E spesso certo. I genitori molto, molto presenti nel ribadire il fatto che la scuola è come una giungla, perché la vita è tale, quindi il figlio non fa altro che amministrare il prestigio che poi avrà una volta nella vita, qualcosa del genere. Certo. Esistono dei, diciamo, a livello personale, io sono abbastanza svelto nell'interpretazione di certi simboli che, come diceva lei, contraddistinguono, però al di là della, diciamo, della questione visiva o nello sviluppo cognitivo, poi il ragazzo realizza delle distorsioni, diciamo così, che forse esplica perché in un vissuto familiare magari non riesce ad emergere, allora emerge nella scuola. E bisogna anche capire dal punto di vista sociale che loro restano comunque bombardati quotidianamente di violenze non solo in ambito domestico, ma, come diceva la professoressa, anche diciamo, la realizzazione di questa multimedialità che comporta una trasmissione ancora più veloce, forse determina. Sì, però questo mi permette, professore, fa parte dell'epoca che stiamo vivendo. Certo. Non è che possiamo tirare il freno a mano e dire ma questa cosa. Dobbiamo abituarci a respirare l'aria che abbiamo a disposizione. Guardi, ieri le cito questo fenomeno. Abbiamo una ragazza che purtroppo non sente e quindi bisogna far vedere magari dei filmati con dei sottotitoli. Chiaro. I compagni lo sanno tutti e ovviamente continuano a lamentare il fatto che loro purtroppo non possono vedere quel filmato come potrebbe vedere qualunque altra classe e chiedono di togliere i sottotitoli. Questo è un fenomeno che, cioè, i ragazzi che sono in formazione, se avessero, diciamo, a livello comportamentale e familiare una sana, dei sani principi di educazione, non farebbero domande. Beh, questa è una discriminazione che respirano in famiglia. C'è, esatto, una coscienza, quindi, del nostro paese molto labile nei confronti della diversità, delle handicap, esatto, figuriamoci. Esatto. Beh, questo è un altro ancora problema, ancora più sottile, che ben conosco. È un fenomeno di bullismo anche quello. Sì, cioè, sì, beh, quelli sono i genitori che dicono perché mio figlio deve subire l'onta del sottotitolo perché c'è una ragazza sorda, la mettano in una classe fatta solo di sordi. Questo è un po' l'idea. Professoressa Gabriella Leandri. Sì, lo spunto del docente mi dà modo di poter, appunto, intanto complimentarmi per il fatto che attua all'interno della sua classe una pedagogia di tipo attivo, per cui stimola il dialogo, ci prova. E eventualmente sarebbe anche opportuno progettare e attuare delle attività didattiche che possano stimolare la collaborazione e la cooperazione tra compagni differenti, tra compagni di differenti, appunto, estrazioni socio-economico-culturali, tra compagni che provengono da famiglie differenti, e quindi forse, appunto, mettersi in gioco e provare direttamente delle attività che siano educative e formative, ma che e educhino e formino anche alla solidarietà, alla collaborazione e alla cooperazione. Leggo qualche SMS per dare un po' il tono, perché non possiamo far finta di essere tutti buoni e tutti sensibili. Un ascoltatore scrive: perché non dite questa è una sorta di selezione naturale? Le vittime di solito sono gli sfigati. Sì, bisogna vedere chi è considerato sfigato sui banchi di scuola, cosa poi sarà nella vita e viceversa. Elementare, mio figlio ha raccontato che un compagno è stato picchiato e preso in giro, che faccio? Molti genitori stanno scrivendo e stanno ponendo il problema. Natalia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io mi sento molto coinvolta in questa cosa qui, perché siccome ho cresciuto una figlia a Londra ed era fortunatamente queste manifestazioni qui erano ben praticate già prima che noi arrivassimo a vivere lì, a trasferirci a Londra, però voglio dire, noi poi l'abbiamo ereditata questa cosa, cioè abbiamo ereditato qualcosa che non ci appartiene a livello non solo culturale, ma proprio, voglio dire, di sociale, ma l'abbiamo ereditato, perché poi sono venuti a manifestarsi dei problemi tipo le famiglie single, la mamma single, il papà single, E quindi c'è stata anche una sorta di distruzione anche di cellula sociale. Quindi, sì, vabbè, ma adesso questo c'entra fino a un certo punto. Scusi, non voglio entrare, ma una mamma single non è detto che debba generare un bullo o una vittima di bulli necessariamente. Famiglie con tanto di genitori, nonni e zii possono generare un animale di mostruosità e di cattiveria, dipende poco. Comunque, parlato della sua esperienza londinese, Zamir. Pronto? Sì, eccomi Zamir. Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo intervenire perché si è parlato molto del discorso che c'entra molto la famiglia nell'educazione della famiglia, ma io sono convinto di più che c'entra più il ruolo dell'insegnante che della famiglia. Io sono stato a scuola anch'io, ho 32 anni, e mi ricordo che i bulli venivano per di più dalle famiglie normali, cioè famiglie che non venivano da comportamenti criminali o ragazzi che erano, si può dire, che avevano subito delle violenze. Sì, ma questo l'abbiamo detto all'inizio. Se... Ma infatti io dico che per di più il discorso, la centralità dell'insegnante. Lei ha visto, il mio nome è Zamir, io le dico, vengo dall'Albania. Fino al 90-91 mi ricordo, quando c'era il vecchio sistema, il ruolo dell'insegnante era centrale. Se tu andavi a casa con una nota dell'insegnante che tu non studiavi, che prendevi dei rimproveri da spauracchio anche a casa. Lei quindi si è rotta una linea di comando da parte degli insegnanti, per cui accade anche questo. Melog, la realtà condivisa. Alle medie, seppure fossi grande e grosso, hanno cominciato a prendermi di mira, non miei compagni di classe, ma comunque persone della scuola. Mi hanno sempre vessato, preso in giro e minacciato anche, però poi la cosa, bene o male, è finita lì perché sono finite le medie. Io comunque ho cominciato a frequentare arti marziali sia per avere autocontrollo sia per difesa. La cosa comunque non è migliorata quando sono andato alle superiori, perché per i primi 3 anni delle superiori ho sempre subito vessazioni da parte dei miei compagni. Questa è un'altra testimonianza di un ascoltatore che è sempre stato vittima dei bulli, nonostante che avesse appreso tecniche segrete di autodifesa. Serve poco la tecnica di autodifesa. Ezio, buongiorno. Buongiorno, io ho 52 anni, ho vissuto negli anni 60 anch'io il bullismo, non è una cosa nuova secondo me. Sì, ma noi stiamo cercando di capire come si è evoluto, tutti a scuola abbiamo visto e penso, esatto, che la storia ce lo racconta. Sono stato vittima comunque come tanti probabilmente. E ho avuto la fortuna di vivere in quegli anni in cui erano iniziati a diffondersi i film di Bruce Lee, i film cinesi di Kung Fu. Esatto, si provavano a fare un po' le mosse e andava caso, a scuola con nunchaku, cosa faceva? In quel caso però non ho neanche semplici movimenti così tanto da imitazione. Sta di fatto che questo aiutava un po', serviva un po' da deterrente. Una cosa che vorrei citare, proprio perché vorrei proporre anch'io di fare dei corsi di autodifesa che durano anche poco tempo e si possono fare a qualunque età. Una cosa curiosissima delle suore indiane che dal convento dovevano andare in un ospedale, e c'è anche la foto su internet tra l'altro, che appunto continuamente vessate nel percorso, presero un istruttore di arti marziali. Nel momento in cui si diffuse la voce che queste suore facevano questo corso di autodifesa, nessuno le attaccava più. Diciamo che in linea teorica è giusto e sono convinto che un'attività di arte marziale serva molto. Lei ha citato le suore, ma una delle scuole di Kung Fu, Wing Chun, è fatta proprio da una suora cinese, anche lei che insegna, e ci sono tante scuole, abbiamo già parlato con insegnanti, che danno proprio questo senso di sicurezza. Ma la vessazione tipo psicologico è talmente forte nella vittima dei bulli che anche se fosse cintura nerissima di karate o esperto in tutte le arti marziali, rimane psicologicamente bloccato, serve poco. Una cosa è apprendere un'arte marziale in palestra, una cosa è aver fatto la scuola della strada. Esiste un solco invalicabile tra un combattimento fatto in palestra e una persona che ti sta davanti e di cui dovresti sentire l'odore del sangue. Andrea. Sì, buongiorno. La mia testimonianza è questa: io ho una figlia di 6 anni che frequenta la prima elementare e un maschio di 8 che fa la seconda. La bambina volevamo mandarla a danza con le amiche, non vuole andare assolutamente a danza, va a fare kickboxing insieme al fratello. L'altro giorno viene a casa la mezza, questa bambina piange, io vado in camera, gli chiedo cosa è successo, non vuole dirmelo, finché pian pianino riesce a raccontarmi tutto. Praticamente mi dice che un maschio, un suo compagno di classe, la tormentava in continuazione, non la finiva, e lei, dispiaciutissima, gli ha dato un pugno sul naso e gli ha fatto uscire il sangue dal naso, ed era dispiaciuta, piangeva destra e sinistra, e io gli ho detto che non si deve fare, che la prossima volta lo deve dire alla maestra se qualcuno la disturba, però non vi nascondo che un pizzico di soddisfazione dentro di me l'ho avuto. Guardi, io non faccio il moralista, sarei stato forse soddisfatto anch'io, e pensavo già che nella vita questa ragazza non avrebbe avuto problemi. Ammesso che sia così, sarei contento. Purtroppo non sempre accade così, perché una bambina di 6 anni che dà un pugno a un ragazzo, poi è dispiaciuta, vuol dire che è in un contesto familiare illuminato e intelligente, non ha dei genitori che la izzano, chi mena per primo mena due volte, queste cose qua. Che anche è vero, è in assoluto è anche vero, ma non è questa la linea, perché si trasforma e diventa un'escalation. Non so se questa possa essere la strada. Probabilmente quel bambino non darà più fastidio a sua figlia. Professoressa Gabriella Leandri, sì. Questo è un problema che stanno molti dimostrando. Ci mandiamo a insegnare a menare, ma nell'escalation poi il bullo verrà con il bastone. A quello che prospettava Hobbes della guerra di tutti contro tutti. No, la fattispecie che ci ha raccontato l'ascoltatore è quella del cosiddetto bullo temporaneo, che ha una reazione appunto violenta proprio perché come reazione ad uno stimolo che è avvenuto, però che rimane circoscritto nel tempo, e spero che poi sia circoscritto nel tempo e che parlandone in famiglia e a scuola poi si riesca. A parte che dalla prima elementare all'ultimo anno di liceo si assottiglia, si fa molto più raffinato anche il metodo del bullismo. Certo. A 6 anni è un bambino un po' manesco, certo. È stato messo a posto. Alla scuola media, al liceo, entra in gioco su leve più profonde, certo, quelle che psicologiche che immobilizzano ogni capacità di reazione fisica. Certo. Questo vorrei dire, non vi illudete se vostro figlio è bravissimo a menare le mani, si salvi dai bulli. Le leve sono talmente profonde che viene disinnescata ogni capacità di reazione, a meno che vostro figlio sia un picchiatore quatto, abituato a fare a botta la mattina e la sera, ma allora è un altro problema, un altro certo. Discorso, sarà sempre salvo dai bulli nella vita. Luciano. Sì, sono Luciano, telefono da Torino. Io faccio parte di un'associazione Onlus che si chiama Cerchio degli Uomini. Noi stiamo lavorando da anni contro la violenza e per combattere la violenza abbiamo presentato dei progetti che partono per le scuole, per i ragazzi, in particolare per i licei o comunque per le prime superiori, nell'intento di prevenire, perché il nostro di prevenire la violenza. Ecco, quindi concretamente cosa fate? Mi sembra un'idea interessante. Cosa fate concretamente? Allora, tra l'altro dovete cambiare nome, per fra un po' dovete fare anche il cerchio delle donne, perché sta aumentando. Noi lavoriamo anche con le donne, abbiamo parecchi gruppi, siamo nati una quindicina di anni fa come gruppi di confronto maschile. Poi abbiamo allargato il discorso, poi ci siamo costituiti un'associazione, Onlus, poi abbiamo allargato questi gruppi di incontro e di confronto alle donne, abbiamo dei gruppi misti, abbiamo dei. Ma voi cosa siete essenzialmente? Diciamo è un approccio di tipo psicologico, umanistico o un approccio. Sì, dunque, nell'ambito della nostra associazione ci sono diversi counselor, io anche sono un counselor, e altri volontari che comunque hanno tutta una serie di corsi di preparazione specifici su questi argomenti. E il vostro pacchetto cosa comprende? Andate in una scuola, cosa fate? Faccelo capire concretamente, perché allora, stiamo per chiudere. Noi facciamo degli interventi di 4 ore con i ragazzi, senza la presenza dei professori, in modo che si sentano più liberi di esprimersi con i loro linguaggi e con le loro metodologie. Ci sediamo in cerchio, facciamo scrivere alla lavagna da un ragazzo e da una ragazza gli stereotipi, spiegando magari, accennando quelli che cosa vuol dire la parola stereotipo, perché alcuni non. Se adesso però la sigla ci conclude, abbiamo capito che comunque c'è un'altra possibilità di intervento, entreremo più nello specifico, mi sembra che la materia meriti successivi approfondimenti. Ringraziamo la professoressa Gabriella Leandri e il tema non è assolutamente chiuso questa mattina. Grazie a voi. Melog, la realtà condivisa.